Focus Economia con Deborah Rosciani. Sono 17.08, fra una manciata di secondi, 17.09. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia. Allora, io oggi cercherò di raccontarvi le notizie di questa giornata con il sorriso sulle labbra, perché ieri qualche ascoltatore al 349-238-6666 si è lamentato del fatto che diamo troppa enfasi a questi ribassi di borsa, stiamo generando del panico. Allora io cercherò, con il sorriso sulla bocca, nella maniera migliore che posso, di raccontarvi quello che è successo oggi sui mercati. Ma insomma, lo avete sentito, soprattutto gli appassionati, gli affezionati di Radio 24, dalla mattina alla sera, lo avrete sentito da questa mattina. Oggi davvero sui mercati si è visto di tutto. So che apriamo con questo preambolo praticamente tutti i giorni, ma davvero oggi abbiamo visto il peggio, al punto che addirittura in preapertura a New York sono state congelate le contrattazioni sui futures, quindi le preaperture sul mercato americano. Si preannunciava il peggio, i cali ci sono molto forti, ma per la verità sono un po' meno forti rispetto a quanto proprio gli stessi futures congelati indicavano. E infatti adesso in America, Wall Street, abbiamo dei cali che sono nell'ordine del 4%, su Standard & Poor's, su Dow Jones il Nasdaq perde il 3,45%, in apertura perdeva il 6%. In Europa invece oggi davvero è stata una giornata, lo dico col sorriso sulla bocca, da panico, perché abbiamo avuto stamattina perdite nell'ordine del 9%, quasi 10 punti percentuali sui principali panieri. Adesso invece sul finale la situazione sta migliorando, se di una situazione migliore si può parlare, se gli indici perdono il 7%, come sta accadendo a Francoforte, il 5,21% a Parigi, a Londra meno 6,44%, Milano meno 7%. Non ci sono state delle notizie particolari che questa mattina hanno provocato questo crollo, che poi, come vi racconteremo adesso nella cronistoria della giornata, è iniziato in Asia. La giornata è proprio in Asia, è cominciata molto male. E poi in Europa è andata anche peggio. Certo, sono arrivate notizie molto preoccupanti per quello che riguarda, per esempio, poi ve ne daremo i dettagli, l'andamento dell'industria automobilistica francese. Renault ha fatto sapere che sospenderà la produzione praticamente in tutti gli stabilimenti nelle prossime almeno 2 settimane. Certo, questo non ha rincuorato gli investitori. Adesso il focus è molto attento sul settore automobilistico, oltre che su quello bancario, ma in realtà non è assolutamente sensato in questo momento parlare di un mercato che fa selezione di un settore piuttosto che di un altro. I cali riguardano tutti e oggi abbiamo visto appunto una vera giornata, lasciatemelo dire, di panico per certi momenti, e da questo appunto partiremo anche stasera per commentare questo periodo, insomma, con i nostri commentatori. Tra l'altro stavo anche osservando come si sta accingendo la chiusura a Piazza Affari oggi su Milano. Ancora una volta bersagliati dalle vendite sono stati soprattutto i titoli bancari, e da stamattina a soffrire è soprattutto Banca Intesa San Paolo, che è sospesa dalle contrattazioni dalle 17, perdeva il 13,8%, ma l'ordine delle perdite è a 2 cifre da questa mattina, e due cifre anche di perdita lo stanno registrando appunto i titoli Tenaris, Fiat meno 9,76, il titolo è scivolato a 5,76 euro, Luxottica meno 9%, Unicredito meno 8,93, Generali meno 7,5, Banca Monte dei Paschi, Seat pagine gialle, la Popolare di Milano meno 7, meno 6,5 punti, Pereni, insomma non si sta salvando praticamente quasi nessuno. Per la verità c'è qualcuno che oggi beneficia del dollaro che sta schiacciando da un paio di giorni l'euro. Adesso le quotazioni sono a 1,2695, quindi c'è stata una netta sterzata, per la verità, nella seconda parte della giornata da parte dell'euro, ma stamattina l'euro era piombato a quota 1,2493 sul biglietto verde. Quindi questa seconda parte della giornata, che ha visto un recupero di nuovo dell'euro, è evidente, ma in ogni caso del trend favorevole soprattutto al dollaro ha oggi favorito i titoli che nel settore del lusso appunto operano molto, che hanno molta parte del fatturato espresso in dollari. Bulgari infatti sta chiudendo con un rialzo di quasi 4 punti, quindi ha proprio completamente invertito la sua seduta. Insomma, una giornata molto interessante, definiamola così, così non spaventiamo nessuno, che commenteremo ampiamente a Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Adesso però non ce ne sono molte, ma c'è anche qualche altra notizia in questa giornata. Abbiamo notizie che riguardano il petrolio, notizie ampiamente attesa. L'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori, oggi ha deciso di tagliare 1,5 milioni di barili al giorno, la propria produzione di greggio. E questo è successo dopo il vertice straordinario dell'organizzazione dei produttori a Vienna, precisando che la decisione sarà operativa da novembre. E il ministro del petrolio del Qatar non ha escluso un possibile nuovo intervento dell'OPEC a dicembre, nel prossimo vertice dei paesi produttori, dopo il taglio appunto che è stato deciso oggi. Qual è stata la reazione delle quotazioni? Abbiamo avuto anche oggi un netto calo dei prezzi del greggio. In apertura a New York quotava 63,72 dollari al barile, addirittura il Brent a Londra è scivolato a 61 dollari. Il trasporto aereo mondiale dei passeggeri ha segnato il primo declino dalle 2003, registrando un calo del 2,9% al scorso settembre, comparato con lo stesso mese del 2007. Lo ha segnalato la IATA, l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. Le perdite previste a fine anno per il settore sono a quota 5,2 miliardi di dollari, secondo le stime che sono state formulate dal direttore generale dell'associazione, Giovanni Bisignani. La IATA appunto rappresenta 230 compagnie aeree, pari al 93% del traffico aereo internazionale. Parlavamo prima delle brutte notizie che oggi sono arrivate dal settore automobilistico, le diamo praticamente quasi ogni giorno, ma oggi di sicuro ha suscitato un'apprensione ancora maggiore quello che ha deciso di fare Renault, che vuole chiudere la quasi totalità dei suoi stabilimenti in Francia per una o due settimane a partire dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato oggi un dirigente sindacale. La quasi totalità dei siti sarà chiusa una o due settimane o forse anche più. Renault ha deciso di avviare così anche la cassa integrazione in Francia per adeguare la sua produzione a questo momento di crisi. Valute oggi anche sotto i riflettori. L'euro, come dicevamo, è sceso oggi addirittura sotto la quota di 1,25 sul dollaro. Per la verità due volte sono stati toccati oggi dei record al ribasso. Prima aveva suscitato già un certo interesse da parte degli investitori la discesa al di sotto di quota 1,26. Poi addirittura abbiamo avuto lo scivolamento sotto quota 1,25. Ma anche la sterlina oggi ha ampliato il suo ribasso verso le altre divise dopo il dato negativo sul prodotto interno lordo britannico nel terzo trimestre. Si tratta del maggior ribasso giornaliero, quello che la sterlina ha subito oggi a 1,50 dollari, e praticamente si tratta del maggior ribasso giornaliero, dicevamo, segnato dal settembre 1992. La moneta britannica è arrivata a perdere il 2,5% nel cross con il dollaro e si tratta in questo caso del più forte ribasso giornaliero da circa 37 anni a questa parte. Gli Stati Uniti rischiano una recessione pluriennale. La sospensione per eccesso di ribasso dei futures di borsa a New York dimostra che potrebbe essere necessario chiudere i mercati per qualche settimana. Lo ha detto, ne abbiamo già parlato ieri, Nuriel Rubini, l'economia che due anni fa predisse la crisi. E oggi intanto, a sorpresa, abbiamo avuto un dato economico che dagli Stati Uniti invece ha sorpreso letteralmente al contrario. Le vendite di case esistenti a settembre hanno segnato un rialzo del 5,5%, un dato di gran lunga superiore alle attese. Probabilmente la svalutazione dei prezzi degli immobili comincia a sortire qualche effetto e magari qualcuno comincia a pensare che in questo momento forse qualche casa è possibile anche ricomprarla. I servizi della Commissione europea sono mobilitati per fronteggiare la crisi finanziaria ed economica che sta colpendo il vecchio continente. A sottolinearlo è stato il portavoce dell'esecutivo europeo che, di fronte al nuovo venerdì nero delle borse e ai crescenti timori di recessione, si parla di una situazione inusuale. Ci possiamo assolutamente definire d'accordo. Intanto vi ricordo che il prossimo 7 novembre è stato convocato un vertice straordinario fra i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in preparazione del G20 sulla crisi finanziaria che si terrà a Washington il prossimo 15 novembre. Poco fa dalle agenzie abbiamo appreso che il Premier Berlusconi avrebbe intenzione di presentare una proposta per la riforma appunto delle regole dei mercati. Commissione europea apre a Nicolas Sarkozy, che ieri ha proposto la creazione in Francia di un fondo pubblico di intervento per intervenire a favore delle aziende strategiche in difficoltà. Insomma, una sorta di fondo sovrano, anche se forse non è esattamente corretto definirlo così, sul modello di quelli istituiti in Russia o in Cina. E mentre le borse oggi sono andate a picco in tutti i continenti, i governi asiatici si sono riuniti a Pechino, ai margini del vertice con l'Europa, per concordare delle prime misure comuni. Secondo fonti della delegazione sudcoreana, i 10 paesi del sud-est asiatico hanno deciso di creare per il 2009 un fondo di sicurezza da 80 miliardi di dollari per proteggere le economie della regione in crisi. L'ultima notizia, prima di cominciare i nostri commenti su questa giornata, un'altra notizia discretamente buonina: l'Euribor. Oggi è risultato appunto in nuovo timidissimo calo al 4,92%, in realtà non tanto in calo, è rimasto stabile sui livelli degli ultimi giorni, però insomma già questo è anche un risultato. Speriamo che la tensione che ancora persiste tra le banche non si traduca di nuovo in tensione. Comunque siamo al 4,92%, mentre per la verità l'andamento dell'euro, almeno la discesa che aveva subito questa mattina, indica una possibilità che la Banca Centrale Europea possa presto intervenire per tagliare misure anche piuttosto drastiche, tassi di interesse nell'eurozona. Lo vedremo anche se i nostri commentatori di questa sera sono d'accordo su questo orientamento. E allora cominciamo un po' ad approfondire che cosa è successo oggi di nuovo in questa giornata di bufera sui mercati. Allora, buonasera a Carlo Bastasin, editorialista del Sole 24 Ore. Carlo, buonasera. Pronto? Bastasin, mi senti? Non riusciamo, allora proviamo a recuperarlo, magari abbia... Pronto? Pronto? Carlo Bastasin, sì. Eccoci qua. Vabbè che è successo di tutto sui mercati, abbiamo temuto anche, come dire, qualche intervento nelle nostre linee, non lo so, qualcuna furia di non voler più sentire queste notizie, ne avrebbe anche ragione per la verità, magari qualche sabotaggio anche all'indirizzo degli studi di Radio 24, ma insomma tanto per sdrammatizzare anche questa giornata. Ho fatto un po' il riepilogo delle notizie che oggi hanno riguardato i mercati, abbiamo riepilogato quello che è successo che stamattina la giornata è partita malissimo sui paesi asiatici, sulle borse appunto asiatiche. Il Nikkei a Tokyo ha perso il 9,60%, a Seoul si è registrata la peggior prestazione dal 1983, se non ricordo male, e l'Europa è partita altrettanto male, è andata a finire a metà seduta, ancora peggio, gli indici perdevano 9-10 punti percentuali. Da Wall Street non è che è arrivato moltissimo aiuto, però insomma il fatto che Wall Street non cada poi, così come preannunciavano i futures, che addirittura in maniera clamorosa, perché è successo per la prima volta da 10 anni, sono stati anche sospesi dalle contrattazioni, Wall Street non cade in maniera poi così dirompente, anche se insomma abbiamo tuttavia un ribasso del 3%, insomma l'Europa sta tentando di avviarsi alla chiusura in maniera migliore di come non fosse andata nel corso della giornata. Tuttavia abbiamo dei cali attestati a 5-6 punti percentuali. Allora, difficilmente riusciamo a trovare delle notizie che questa mattina abbiano fatto partire questa pioggia di vendite. Carlo, come dobbiamo interpretare questa giornata? Ce lo dicevamo prima anche a microfoni spenti. Trovare oggi come oggi, dopo un anno e mezzo di analisi continue di questa tendenza, delle domande appropriate da fare anche ai nostri commentatori è diventata un'impresa assolutamente ardua. Qual è oggi l'elemento nuovo dal quale poter partire? Diciamo che è più la maturazione di elementi che erano già vistosi negli ultimi giorni, e essenzialmente la presa d'atto che la recessione che si profila può essere peggiore del previsto. Ora, in tali circostanze il mercato sappiamo che ha una direzione, che è quella quando non riesce a vedere bene l'orizzonte, anzi prevede che l'orizzonte sia più buio e più lungo del previsto, tende a vendere, e all'interno di chi vende c'è chi può scegliere di vendere e lo fa a determinate condizioni, e chi invece deve vendere ad ogni costo. È questo quello che distingue le crisi caratterizzate da crisi bancarie, le recessioni che sono precedute da crisi bancarie, proprio il fatto che sono più profonde e più difficili da risolvere e più durature, perché la struttura del bilancio bancario è tale che per toccare il fondo, a differenza conseguenza di quello che succede con imprese industriali che possono arrivare a un livello di valore zero, un'impresa bancaria ha un tale livello di leverage, di leva finanziaria, che l'effetto negativo del suo ridimensionamento può essere, diciamo, paradossalmente molto maggiore, insomma. E questo è quello che sta succedendo. Quindi il tema è fino a quando non si avrà la chiarezza che le banche si sono liberate di tutti i titoli tossici che hanno in portafoglio, che si sono depurate di tutte le attività anche costruite a leva in questi anni, probabilmente questa pioggia di vendite non avrà fine, anche perché abbiamo già capito che fino a quando la crisi finanziaria, puramente finanziaria, non ne potrà trovare un aggancio per potersi risollevare, è chiaro che c'è il trasferimento anche all'economia reale, e lo sappiamo benissimo anche dalle pagine del Sole 24 Ore, continuiamo a raccontare di come a questo punto le banche in queste condizioni facciano assolutamente fatica a garantire anche il sostegno finanziario a tutti gli altri settori industriali, di conseguenza i riflessi in borsa li vediamo. Oggi abbiamo avuto queste notizie assolutamente preoccupanti anche dalla Francia, del settore auto abbiamo già detto, ieri lo diceva anche Sergio Marchionne dagli Stati Uniti presentando la trimestrale di Fiat, il 2009 sarà un anno nero per questo settore, ma perché probabilmente in una recessione globale sarà un anno nero per i consumi, Carlo, ma il settore auto, da un giorno all'altro Renault ha detto chiudiamo gli stabilimenti per una o due settimane, ma è mai possibile che si debbano prendere decisioni di questo tipo? Forse era già nell'aria, ma che debbano piombare all'improvviso notizie di questo genere, anche questo non può contribuire a generare ulteriormente l'effetto panico che oggi abbiamo visto, insomma le modalità, anche i timing di comunicazione delle notizie, non so se ti sembra una riflessione che non ha rilevanza. In condizioni di maggiore tranquillità diremmo che siamo sorpresi dalla flessibilità degli impianti europei, che riescono a chiudere in tempo rapido, con decisioni rapide e per tempi ridotti, quindi non prenderei tutto così negativo. Certo, gli ultimi dati sui consumi negli Stati Uniti, in particolare quello sulle vendite al dettaglio del terzo trimestre, è spaventoso, e quello europeo anche sugli ordini delle imprese, ma anche sulle prospettive di consumo, e forse c'è anche qualche riflessione da fare sul modello di consumo che potrebbero cambiare. Diciamo che il vero punto su cui focalizzare l'osservazione adesso, infatti, come reagiranno le famiglie che per lungo tempo sono stati quelli che hanno assorbito gli shock di volatilità dei mercati finanziari, che con i loro comportamenti hanno permesso, diciamo, a questo lungo periodo di che chiamavamo la grande moderazione degli anni scorsi a continuare. Ecco, come reagiranno le famiglie ovviamente non è facile vederlo. In questo momento l'effetto sui consumi sembra non essere coerente con gli andamenti fondamentali dell'economia, cioè le famiglie sembrano reagire in modo ancora più negativo nelle ultime settimane. Questo significa, a mio modo di vedere, che l'intervento su cui dovrebbe impegnarsi essenzialmente un governo è quello di modificare le aspettative, una classica iniziativa di politica economica tesa a stabilizzare le aspettative sia delle famiglie sia delle imprese, e questo è quello che mi aspetterei da un'efficace azione di politica economica. Un'efficace azione di politica economica. Il movimento dell'euro di questi giorni sul dollaro lascia capire abbastanza chiaramente di come ci sia una certa pressione da parte degli investitori affinché la Banca Centrale Europea dia un taglio netto ai tassi di interesse, oggi al 3,75%, peraltro portati su questi livelli in seguito alla manovra appunto congiunta presa con le altre banche centrali due settimane fa. Qua mi pare di capire che l'Europa ha bisogno di ben altro, Carlo, è così? Ma attenzione, quello che è successo col primo taglio dei tassi, quello a cui tu ti riferisci e che si è verificato in poco tempo, che non è servito a nulla, mezzo punto di riduzione dei tassi di interesse si è subito trasferito in un aumento di mezzo punto del premio a rischio, quindi in realtà È vero che i tassi di interesse a noi sembrano, quelli perlomeno regolati, controllati dalla Banca Centrale Europea, ci sembrano l'unica cosa che sta ferma e rigida in un mondo che sta cadendo in pezzi. In realtà quello che noi dovremmo osservare però non è tanto il livello dei tassi di interesse a breve termine quanto quello a lungo termine. E quello è ovviamente influenzato dalle prospettive di medio termine che sono a loro volta dettate dalla politica monetarie. Quindi se noi abbassassimo molto rapidamente i tassi di interesse, cosa che peraltro io penso che si farà, che avverrà nei prossimi mesi, però se lo facessimo in modo indiscriminato, se l'avessimo fatto anche in passato, probabilmente incorporeremmo delle strane aspettative sui tassi di interesse a lunga e teniamo conto solo degli effetti sui mutui. È vero che noi adesso siamo condizionati dal fatto che il mutuo è indicizzato a un tasso interbancario a 3 mesi, ma le prospettive del mercato immobiliare sono determinate dai tassi di interesse a lungo termine, in realtà quelle le prospettive a lungo termine. E se noi avessimo condizioni instabili sull'inflazione, sul costo del denaro a lungo termine, probabilmente avremmo un mercato immobiliare ancora più gonfiato, incoerente con le condizioni dell'economia. Grazie a Carlo Bastasini, editorialista del Sole 24 Ore, però io semplicemente passo il testimone, perché adesso saluto e ringrazio di essere con noi invece dagli Stati Uniti il professor Alberto Bisin, economista docente alla New York University. Professor Bisin, buonasera, buon pomeriggio per buonasera. Lei, buongiorno anzi per lei. Ed eccoci ritrovati in diretta dopo una giornata che ha visto dei punti minimi degli indici europei. Vedo che sul finale invece l'umore si sta risollevando, la chiusura è sicuramente negativa per gran parte delle piazze europee, ma la misura è nettamente inferiore rispetto a quello che è successo in giornata. Parigi -3,75%, ancora un po' più pesante Francoforte, perde il 5%, anche se poi la maggior parte delle notizie negative oggi sono arrivate proprio dalla Francia, con la profonda crisi dell'ambito automobilistico. Londra -6%, recessione, ne parleremo tra qualche minuto. S&P MIBA Piazza Affari -5,61%, il Dow Jones negli Stati Uniti -3,24%, Nasdaq -2,49%, Standard & Poor's -3,36%. Ancora buonasera al professor Alberto Bisin, economista, docente alla New York University. Ho cominciato a disturbarlo oggi nel primo pomeriggio, per lui era mattina presto, era già in ufficio all'università appunto di New York e forse non si è fatto un giro, professor Bisin, al distretto finanziario a Wall Street per capire che umore serpeggiava questa mattina lì a New York, ma insomma abbiamo capito da quello che stava succedendo, dal congelamento dei futures, che la giornata non volgeva certo al meglio. Lei che idea si è fatto di questa nuova giornata nera dei mercati? Ma guardi, è molto difficile essenzialmente guardare i mercati giorno per giorno, insomma, chiaramente c'è una volatilità enorme, insomma, si sale, si scende dal 5% con una facilità che insomma non si vedeva da tanto tempo, quindi io provo a non guardarli giornalmente i mercati in questo senso, perché sennò uno si spaventa per nulla, insomma. Ecco, lei però con grande chiarezza qualche giorno fa sulla stampa commentava e ammetteva abbastanza chiaramente che a questo punto il panico si è impadronito dei mercati finanziari, anche se attribuisce a gran parte della responsabilità di questo panico soprattutto ancora agli Stati Uniti, anche se noi ormai guardiamo alla crisi nelle modalità molto dirompenti con cui si sta trasferendo anche in tutte le altre parti del globo, professor Bisin. Perché ancora gli Stati Uniti? Ma insomma, questa crisi è partita negli Stati Uniti e tutto sommato i meccanismi che il Tesoro degli Stati Uniti e la Federal Reserve hanno messo in piedi per cercare di fermare la crisi finanziaria, secondo me in realtà hanno fatto l'opposto, nel senso la crisi è quello che è, ma hanno veramente cercato di generare panico, hanno generato panico e un pochino l'hanno anche fatto apposta, nel senso che insomma avevano bisogno dell'appoggio del Congresso, questo è un anno di elezioni, quindi è un momento molto difficile e quindi io ho l'impressione che diciamo sia la Banca Centrale qui, ma soprattutto il Tesoro, abbiano spinto molto sul terrore della situazione, e chiaramente questo insomma ha avuto i suoi effetti. Adesso è vero, la questione in Europa si sta trasferendo in Europa, adesso è molto più mi par di capire che in questo momento i mercati stanno cercando di, come dire, scontare la crisi economica, non solo quella finanziaria, ma la crisi economica, la recessione, insomma, che avverrà presto, nella quale siamo già probabilmente. Che proporzioni avrà questa recessione, professor Bisina? Allora colgo la palla al balzo proprio per chiederle un'analisi anche in prospettiva di questo, anche se abbiamo capito che questa è una crisi che praticamente nella quale ogni analisi fatta in un momento particolare ovviamente poi lascia il tempo che trova, perché ogni giorno si aprono davvero dei focolai di crisi nuovi, per cui mi rendo anche conto che per voi è assolutamente difficile in questo momento, ma sarà una portata tanto imponente? Dunque, io credo di sì, insomma, credo che sì, che sarà una crisi abbastanza una recessione abbastanza profonda. Non credo che ci siano ancora ragioni per pensare che, diciamo, la crisi economica sarà una crisi epocale, insomma, potrebbe essere, però non si vedono ancora indicazioni in questo senso. La crisi finanziaria lo è stata, insomma. La crisi economica ancora non si vede. Io devo dire, dovessi dire, sono un pochino più preoccupato per quello che ogni tanto si riferisce, cioè a cui ogni tanto ci si riferisce pensando alla crisi del Giappone. Cioè sono più preoccupato invece che non di una recessione lunga di una recessione profonda, di una recessione non così profonda ma molto lunga, che è quello che è successo in Giappone negli anni 90. Questo speriamo non succeda, però diciamo, quello che le banche in questo momento, le banche centrali in questo momento stanno facendo sembra far ripensare a quello, e questo mi sembra un po' preoccupante. Ecco, professor Bisina, invece le chiedo una valutazione anche sull'enorme mole di interventi che viene compiuta da qualche settimana a questa parte da parte dei governi, appunto in particolar modo dell'Eurozona, in questa fase per intervenire nel capitale appunto del settore bancario. Sì, dunque io credo che l'idea di intervenire sul capitale delle banche sia, diciamo, un metodo di intervento certamente superiore a quello che invece il Tesoro pensava di fare negli Stati Uniti, cioè di comprare le attività, diciamo, che hanno dei problemi, sono le attività, le mortgage-backed securities. Credo che intervenire sul capitale sia il modo giusto di intervenire. Credo che il problema in parte è stato che gli interventi sono stati fatti abbastanza a pioggia, cioè sono stati fatti senza distinguere bene o bene a sufficienza la struttura dei bilanci delle varie banche. Questo è stato fatto in Europa, è stato fatto anche negli Stati Uniti. Essenzialmente si ricapitalizzano le banche senza realmente capire quali banche hanno dei problemi e quali no, insomma, o quali ne hanno più di altri. Forse si ha il timore, professor Bisin, mi scusi se la interrompo, di replicare l'errore, tra virgolette, perché da qualcuno viene considerato così, fatto con Lehman Brothers, che è stata lasciata a fallire, anche se anche lo stesso segretario del Tesoro Paulson oggi da molti giornali appunto leggiamo che continua a sostenere non ho avuto altra alternativa, non avevamo nessun'altra alternativa a questo punto, visto poi quello che si è scatenato sul mercato all'indomani del fallimento della bancarotta dichiarata di Lehman Brothers. Si tenta di non ripetere quello scenario, visto che già i mercati vanno come vanno, non aggiungiamo insomma benzina, non gettiamo benzina sul fuoco, o no? Certo, queste, certo, però diciamo io ho l'impressione che in realtà ne siano fallite troppo poche banche, in un certo senso, comunque che le banche si stiano nascondendo dietro queste ricapitalizzazioni, e questo genera incertezza sui mercati, credo che abbia effetti negativi. Quando parlavo prima del Giappone pensavo proprio a questo, cioè quello che è successo in Giappone è stato un tentativo di salvataggio del sistema finanziario nel suo complesso, che ha fatto sì che il sistema finanziario stesso non sapesse, diciamo, quale parte di esso fosse in buone condizioni e quale no, e ho l'impressione che questo sia quello che sta succedendo. È chiaro che far fallire delle banche o dichiarare apertamente che delle banche hanno dei seri problemi non aiuta per quanto riguarda il panico, insomma getta in parte i mercati nel panico, però ho l'impressione che nel medio periodo il sapere, diciamo, l'avere informazioni su chi sta andando male e quindi di conseguenza chi non lo sta facendo sia quello di cui il mercato ha bisogno. In questo momento, non facendo fallire nessuno, non dando informazioni su nessuno, su nessuna banca, ho l'impressione che diciamo, i mercati sentano una certa incertezza e quindi siano come dire, ancora anche il mercato interbancario è migliorato dopo i vari interventi, però comunque c'è una forma di sfiducia di una banca nell'altra che è ancora continua. Sì, è migliorato, ma insomma senza grande enfasi, mettiamola così, senza insomma, grande entusiasmo, e si va avanti in maniera molto molto lenta. Le chiedo un'ultima cosa, professor Bisin, perché poi vedo che è già pronto anche da Londra il nostro Marco Niada, corrispondente da Regno Unito delle Sole 24 Ore. Le chiedo anche un commento da New York: come state vedendo questi venti di crisi molto pesanti anche in questo caso, sempre più forti, che stanno soffiando su tutti i paesi dell'ex blocco comunista a causa della crisi finanziaria globale? Abbiamo delle situazioni qua assolutamente interessanti, chiamiamole così, per quello che sta accadendo, come per esempio per l'Ungheria. Sempre un numero sempre crescente di paesi sta chiedendo aiuto finanziario al Fondo Monetario Internazionale. Sì, questi purtroppo sono gli effetti del mondo globale. Io credo che appunto in molti casi molti di questi paesi oggettivamente non hanno come dire nessuna colpa, non è proprio una questione di colpa, ma insomma semplicemente sono stati travolti da questa crisi finanziaria immensa, insomma. Quindi credo che certamente bisogna intervenire per aiutarli, perché i fondamentali nel loro caso sono buoni, sono ragionevoli, non c'è nessuna ragione. È chiaro che nel momento in cui le crisi sono così grosse, i disinvestimenti avvengono spesso al margine, quindi chiaramente i paesi, diciamo così, al margine ne pagano grosse conseguenze. Questo chiaramente è un dramma di questa situazione. Professor Bisin, io la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro una buona giornata a New York, a presto. Grazie a lei. Grazie. Saluto anche nel frattempo Marco Niada. Marco, buonasera. Buonasera. Ed eccoci ritrovati a Focus Economia per commentare una delle due notizie che stamattina, quando si sono abbattute sui mercati, hanno provocato una netta accelerata della situazione che già era negativa dall'avvio. La prima era stata quella relativa a Renault, che ha deciso, come abbiamo già raccontato prima, di interrompere la produzione nei propri stabilimenti per almeno 2 settimane in Francia. L'altra è stata invece quella che è arrivata dal Regno Unito, che a questo punto scivola verso la recessione, perché il prodotto interno lordo del terzo trimestre subisce una contrazione dello 0,5%. Ancora buonasera a Marco Niada, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore. Questo non accadeva dal 1992, e il 92 non è che fosse stato un anno propriamente felice per la Gran Bretagna. No, nel 92 la Gran Bretagna usciva dalla recessione in cui era entrata nel 90. È stata una recessione di po' meno di 2 anni, è stata breve ma diciamo intensa. E purtroppo l'impressione è che anche questa sarà intensa e non si sa se sarà breve. Quello che ha destato preoccupazione, perché già da 2 giorni si sa che la Gran Bretagna stava entrando in recessione, anche perché già avevano parato il colpo sia il primo ministro Gordon Brown sia il governatore della Banca d'Inghilterra avevano detto che ormai la Gran Bretagna era in recessione. Quello che ha stupito i mercati è diciamo il tuffo che ha fatto il prodotto nazionale britannico, perché meno 0,5 è tanto, e quindi già oggi una serie di centri studi economici hanno rivisto al ribasso tutte le loro previsioni, che erano già di recessione, e ci sono già alcuni come Capital Economics che dicono che ormai almeno 2 anni durerà e che almeno sarà nel suo insieme la recessione potrebbe essere di 1,5%, però già iniziano a dire che potrebbe essere di più. Il dato disaggregato, Marco, ha fatto emergere che cosa? Tu dicevi insomma che ha colto un po' di sorpresa tutti per entità, ma che cosa ha fatto maturare appunto uno scenario di questo tipo, appunto andando ad analizzare il dato disaggregato? Ecco. Diciamo che la recessione, in questo caso i punti deboli dell'economia che hanno accentuato la recessione è stato il crollo dei consumi al dettaglio e quello ovviamente dei consumi in generale. Va ricordato che l'economia britannica si è retta fino adesso sulla crescita dei consumi. Il fatto che ci sia stata una forte inversione nei consumi sta facendo presagire peggio, perché poi se i consumi iniziano a calare fortemente tutto il resto va di conserva. Qui in Gran Bretagna, come sapete, oltre a non avere una base agricola come anche l'Italia, ma anche una base industriale molto minore, 18% degli occupati lavorano nell'industria, quindi tutto il resto, diciamo più dell'80%, sono nei servizi. Se i servizi iniziano a cadere, c'è ben poco che possa sostenere l'economia britannica. La finanza, come sappiamo, sta andando malissimo e quindi l'economia britannica è una componente molto forte, adesso i consumi stanno seguendo. Questo ha portato adesso già degli economisti a prevedere che potrebbero tagliare i tassi in modo molto rapido e quindi ci si attende che la prima settimana di novembre, quando la Banca d'Inghilterra si riunirà, almeno minimo ci sarà un taglio di 0,5 punto percentuale, ma c'è già chi pensa che addirittura potrebbero prendere la drastica decisione di fare 0,75 addirittura 1, il che sarebbe enorme. E poi comunque tutti prevedono i tassi a metà dell'anno prossimo, tra il 2 e il 2,5%, tra l'altro, 4,5% che sono adesso. Tra l'altro anche i futures sui Fed Funds, sui tassi di interesse americani, oggi già anticipavano un possibile scenario di questo tipo anche di nuovo negli Stati Uniti. Ma a parte questo, questa situazione che oggi ci hai descritto appunto relativamente alla pubblicazione del prodotto interno lordo britannico ha determinato anche un fortissimo ribasso intraday, cioè nella giornata appunto della sterlina, anche in questo caso la divisa appunto britannica ha avuto nei confronti del dollaro un calo tale che l'ha portata ai minimi da 5 anni a questa parte. Ma a parte quello che è successo sul mercato valutario dal punto di vista dell'economia, mi chiedo come è stata vissuta la City, Marco, questa giornata invece di ribassi addirittura da panico in certi momenti, poi si sono risollevati i listini sul finire della giornata appunto alla City. Allora, prima di tutto confermo, stavo proprio per dire, la sterlina è andata 1,58 e proprio per su un'aspettativa di tagli forti ai tassi, quindi la sterlina c'è già chi prevede che vada vicina all'euro, ecco, in prospettiva, numero uno. Numero due, certo, è stata una giornata da cardiopalma, ho parlato oggi fra l'altro con gestori di fondi e molti sono preoccupati. Ieri c'è stata la riunione degli hedge fund qui a Londra, si prevede che addirittura 70-80% secondo i più pessimisti, 30% secondo gli ottimisti di fondi potrebbero scomparire da qui a Natale. Questo potrebbe portare altri riscatti, altre vendite e quindi questo potrebbe portare a nuovi cedimenti della borsa e quindi le notizie non sono piacevoli, tutti restano col fiato sospeso e ci si augura il meglio, ecco, perché è chiaro che il panico sta prevalendo in questo momento, i fondamentali delle aziende sono buoni, però il fatto è che il sangue che circola nel sistema si chiama finanza, si chiama appunto moneta, e quella non gira, e se non gira tutto si inceppa, quindi iniziano ad esserci scricchioli, ad esempio, di aziende che inizierebbero a avere problemi, specialmente piccole e medie, di solvenza. E non per altro il governo britannico ieri ha avuto una riunione di vertice fra banche, governo e responsabili della Confindustria britannica, delle Camere di Commercio, per vedere di oliare il più possibile l'accesso al credito, però le banche stesse dicono sì, ma noi non è che possiamo farlo politicamente, insomma, se poi non riusciamo noi ad accedere al credito non possiamo darlo alle aziende. Quindi, insomma, la situazione è molto tesa e tutti si augurano appunto che poi le cose inizino a girare, perché a un certo punto gireranno, ecco, non si può tornare a baratto. No, infatti bisogna solo cercare di capire quando si potrà toccare il fondo. Marco, ci manca un minuto prima della chiusura, però vediamo se riusciamo a commentare come è stato colto sul mercato il Queen Bond che è stato lanciato da Barclays ed è la prima obbligazione bancaria emessa da una banca praticamente sotto il cappello della tutela governativa. Sì, è uno dei primi di questi, e saranno tanti, purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, io direi per fortuna a questo punto, perché il Tesoro ha deciso di garantire sempre di più appunto l'attività delle banche, le emissioni, eccetera. In questo caso è stata la Barclays, che guarda caso fra l'altro non è una delle tre nazionalizzate, che sono Lloyds, HBOS e Royal Bank of Scotland, però Barclays ha bisogno anche lei di liquidità e quindi è iniziato a ricorrere a un'emissione. Anche perché ricordiamo che Barclays, se non ricordo male, ha comprato anche le attività nordamericane di Lehman Brothers, comunque in questa fase di crisi tenta anche di aggredire il mercato con delle acquisizioni, ma questo adesso non abbiamo il tempo di commentarlo. Grazie molto a Marco Niada, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, naturalmente siamo con voi per raccontarvi la giornata finanziaria che, per la verità, a metà aveva assunto una piega sinistra, un copione che avevamo già letto più volte, purtroppo nelle ultime ultime settimane, ma oggi davvero gli indici europei hanno vissuto una giornata sul lotto volante, sulle montagne russe, sono arrivati a perdere tra il 9 e il 10% quasi, poi per fortuna si sono risollevati sul finale, anche se comunque c'è un calo abbastanza profondo e forte per tutte le piazze del vecchio continente. Sono perdite nell'ordine del 5% a Londra e a Francoforte, Parigi meno 3,54%, Milano meno 5,61% sull'S&P MIB, meno 4,96% sul MIB. Nella prima parte di Focus Economia abbiamo un po' analizzato la situazione dal punto di vista generale, adesso invece andiamo al dettaglio della seduta di Piazza Affari. Eleonora Micheli, Radio Cor Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tanto per cambiare, il settore peggiore è stato quello bancario, ma per la verità oggi ad essere di nuovo particolarmente colpito dalle vendite è stato anche l'ambito automobilistico. Esatto, peraltro il quadro per le auto è poco roseo, visto che proprio ieri Daimler ha dovuto rivedere al ribasso le stime per fine anno e quest'oggi è stata invece la volta di Renault. Ieri Fiat invece aveva confermato le stime 2008 e appunto ha annunciato anche la trimestrale in linea con l'attesa. D'altra parte gli analisti hanno puntato l'indice sul fatto che è notevolmente innalzato il livello di indebitamento della casa da 0,5 miliardi di fine giugno a 3,3 miliardi di fine settembre. Ovviamente poi le indicazioni anche di Marchionne sono a luce e ombre per il 2009 e questo ha fatto sì che le Fiat sul finale abbiano chiuso con un ribasso dell'8,7%, in linea comunque con l'andamento del comparto auto europeo. Il settore Eurostoxx 600 ha perso infatti il 7,6%. I titoli bancari oggi è davvero una giornata in rosso profondo, per Intesa meno 10,77, il titolo è arrivato a perdere più di 13 punti, Tenaris meno 9,86, Luxottica meno 8,80, di Fiat abbiamo appena parlato, meno 8,71, L'Espresso meno 8,23, Unicredito meno 8%, il titolo è scivolato, è sprofondato a 1,86 euro e poi meno 6,92% per Seat, pagine gialle, Mondadori meno 6,82, Mediolanum meno 6,82, andiamo subito a vedere almeno per incoraggiarci un po', per non fare sempre come sempre facciamo, insomma, solo il bollettino di guerra. Bulgari più 4%, se c'è qualcuno che beneficia di questo trend del dollaro, quella è sicuramente questa società, Eleonora. Esatto, infatti le azioni di Bulgari sono state le prime che si sono riprese a circa un'ora dalla chiusura, sono rimbalzate in terreno positivo. Ovviamente l'azienda è molto esposta negli Stati Uniti e comunque nelle aree dove i prodotti vengono venduti in dollari e quindi ha beneficiato dello scivolone dell'euro rispetto al dollaro. Adesso si attesta 1,27 il cambio, ma questa mattina è scivolato sotto quota 1,25. Geox più 4%, secondo miglior titolo della giornata. Pensate che insomma stamattina ad un certo punto non c'era nessun titolo positivo e anche quelli che perdevano meno perdevano qualcosa nell'ordine del 2-2,5%, per cui già questo è un gran bel risultato quello che vediamo al finire di questa giornata. Unipol più 3,53% e Fondiaria più 3%, benino il settore assicurativo, Eleonora. Sì, e peraltro nonostante che in Europa invece il sottoindice delle assicurazioni abbia perso oltre il 6%, ci si posiziona soprattutto su assicurazioni più esposte, diciamo, proprio sul business italiano come Unipol e Fonsai, e poi si tratta comunque di movimenti molto tecnici, fare commenti in questi giorni risulta anche abbastanza problematico. Ci sono molti fondi che ovviamente tendono ad acquistare o vendere soprattutto azioni, ma le logiche sono diverse da quella che è appunto l'analisi dei fondamentali delle aziende. Abbiamo un tecnico oggi un po' su di giri dall'altra parte del vetro, Pietro Lacorte, insomma ci ha interrotto brutalmente il nostro collegamento. La tua risposta, Eleonora Micheli, ti chiedevo come hanno reagito i titoli petroliferi di Piazza Affari alla notizia del taglio produttivo di greggio, del quale parleremo tra qualche istante. Guarda, i titoli di tutto il comparto oil sono andati male in tutta Europa, il sottoindice meno 6%, anche a Piazza Affari Eni è arrivata a perdere quasi il 10%, ha chiuso comunque con un calo consistente consistente del 5,76%. Saipem ha notevolmente recuperato anche grazie alla notizia di ieri del contratto siglato in Nigeria, chiuso con un calo del 3,69%. Ovviamente pesa comunque l'andamento del valore del greggio, il WTI è in calo, sta registrando un calo attorno al 4%. Parlavi tra l'altro di fondi che stanno smobilitando le proprie posizioni. Oggi in realtà il miglior titolo in assoluto di Piazza Affari è stato il titolo Azimut, che ha chiuso con un rialzo del 9%, una società di gestione indipendente. Raccontiamo, magari perché ieri non lo abbiamo fatto bene e molti ascoltatori ci hanno chiesto chiarimenti, sulla natura di questo calo fortissimo che da due giorni sta imperversando sui titoli di Mariella Burani. Sì, infatti si è chiusa due giorni fa l'OPA parziale, ovviamente le offerte erano state notevolmente superiori, le adesioni erano state notevolmente superiori, visto che si trattava di un'OPA parziale, ma visto che a causa dell'andamento delle borse il prezzo offerto era notevolmente superiore a quelli di borsa, 17,5 euro. Oggi i titoli hanno chiuso a 10,5 euro, sia ieri che oggi i titoli hanno registrato questo scivolone, non c'è più il sostegno dell'OPA parziale, evidentemente c'è chi ha timore che i conti della società possano non essere così brillanti, anche se recentemente, proprio in occasione della presentazione dell'azienda agli investitori di Londra circa due settimane fa, il direttore finanziario di Mariella Burani aveva rassicurato confermando i target e i conti del 2008 per fine anno. Grazie ad Eleonora Micheli. Adesso rapidamente andiamo a Vienna. Andiamo a Vienna con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Buongiorni. Allora, visto che siamo in scarsità di tempo, perché abbiamo ancora diverse cose da raccontare, Roberto, lascio a te tutto il resoconto di questo vertice OPEC, dove si è deciso di tagliare di 1,5 milioni di barili al giorno la produzione di petrolio a partire dal 1 novembre. Roberto, buonasera. Buonasera a tutti. Sì, dunque, per i pochi ministri che sono rimasti qua a Vienna e i loro delegati, si legge lo sconcerto sul loro volto. Hanno diminuito la produzione più di quanto ci si attendesse, 1,5 milioni di barili al giorno. È un taglio che non si vedeva da almeno dal 2002, è il primo taglio comunque in quasi due anni. E i prezzi cosa hanno fatto? Sono continuati a scendere. L'OPEC ha definito un drammatico collasso dei prezzi. Definito inspiegabile questa discesa, ha chiamato i propri paesi membri a riunirsi in dicembre in Algeria, dove potrebbe venire un altro taglio produttivo. Ma scusa Roberto, no, però quando erano a 147 i prezzi mica lo definivano tanto drammatico questo trend. Vabbè. Questo è un po' la malattia che ha contratto l'OPEC negli ultimi anni. I prezzi continuavano a salire e sembrava che la domanda mondiale, l'economia mondiale reggessero il colpo. 90, 100, 110, 120 e la domanda scendeva poco, quindi l'OPEC ha cominciato a pensare questo è il prezzo corretto. In effetti il prezzo corretto forse non era, perché prezzi così alti si ripercuotono sull'economia reale sul medio termine, non dopo due giorni dopo, e questo è quanto è avvenuto. Poi, complice la crisi finanziaria dei mutui, il danno è fatto, ma la cosa l'OPEC ormai non sembra avere più frecce al suo arco, anche perché la riduzione è di 1,5 più 300.000 barili di sovrapproduzione. Ma se pensiamo che il calo della domanda americana nell'ultimo mese è stato di 1,3 milioni di barili al giorno rispetto al mese dello stesso anno del 2007, quindi vediamo che è un taglio che non soddisfa. Inoltre, qui chiudo, tagliare sì a parole, ma lo faranno davvero? Questa è la domanda. E i mercati ci credono poco che un'organizzazione che non è mai stata così disciplinata a tagliare effettivamente la produzione, adesso lo faccia. Chi dei paesi OPEC, molti dei quali stanno vedendo i loro budget virare verso il rosso, sarà disponibile a tagliare per primo con una grande disciplina e a dare il buon esempio? Insomma, la situazione però per l'OPEC non è delle migliori. Adesso vedremo se metteranno in atto quei tagli che hanno così preannunciato ulteriore. E soprattutto poi vedremo come questi tagli si tradurranno nei prezzi, e ribadisco io, come stanno facendo molti ascoltatori al 349 238 6666, visto che tagli tagli produttivi sulle quotazioni poi non si vedono perché oggi hanno continuato a scendere, speriamo che si vedano in maniera un po' più incisiva anche gli effetti ai distributori di benzina che, anche contraddicendo quello che molti ascoltatori sostengono, non si vedono, da qualche parte si vedono, di sicuro la dinamica è sempre estremamente lenta, ma insomma questa è una denuncia che facciamo da tempo, che fanno anche le associazioni dei consumatori. Adesso invece da Vienna ritorniamo in Italia e ci spostiamo a Bologna. A Bologna, dove oggi si è aperto il forum Piccola Industria sul tema Rinati per esportare la piccola industria all'estero, organizzato da Piccola Industria di Confindustria e Un'Industria Bologna. Attesi per oggi sono arrivati Roberto Calderoli, ministro per la semplificazione normativa, Renato Brunetta, ministro per la funzione pubblica, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e Pietro Modiano, direttore generale di Intesa San Paolo. A margine dei lavori la nostra Anna Marino ha intervistato il presidente di Piccola Industria di Confindustria, Giuseppe Morandini, gli ha chiesto innanzitutto quali sono le leve su cui agire per supportare in questo momento le piccole e medie imprese, vera e propria spina dorsale del nostro sistema produttivo. Le prime tre cose sono senz'altro banche, fisco e pubblica amministrazione. Noi abbiamo bisogno come piccola impresa di avere un rapporto consolidato con le banche, ma con delle banche che decidano finalmente che siamo il pilastro dell'economia di questo paese e accettino di scommettere assieme a noi con tutti i nostri progetti di sviluppo, di crescita e di innovazione. Leva fiscale. Abbiamo dei prelievi fiscali da record del mondo su tutti i nostri bilanci, in questo momento di grande difficoltà, se vogliamo aiutare la capitalizzazione, la patrimonializzazione delle nostre imprese, è lì che bisogna intervenire con detassazione degli utili e con la possibilità di rivalutare gli immobili strumentali delle nostre aziende. Terza cosa, pubblica amministrazione, uno che paghi. C'è un pregresso, il totale degli insoluti della pubblica amministrazione in questo momento rasenta 70 miliardi di euro. Due, una pubblica amministrazione che funzioni. Non è possibile che per una qualsiasi autorizzazione a svolgere le nostre attività di impresa si debbano aspettare mesi, se non addirittura anni. C'è anche il capitolo dell'esperienza all'estero delle piccole imprese. Qual è il bilancio anche alla luce di questa crisi? Oggi qui a Bologna abbiamo avuto dei fenomeni di export. C'era un tavolo che è il Consiglio di Amministrazione dell'Italia che produce, che era formato da 5 piccoli imprenditori, una trentina di milioni di euro seduti a quel tavolo lì, distribuiti in 5 aziende, di quei 30 milioni lì più del 70% è fatto all'estero. Questo è un miracolo, questo è il miracolo italiano, questi sono i fenomeni che fanno grande la nostra economia. Questi sono quelle piccole imprese che hanno saputo riorganizzarsi in questi anni e andare a raccogliere sui mercati internazionali quello che il nostro mercato interno non può più dare. E per quanto riguarda il momento attuale che coinvolge anche le banche, sono sufficienti le misure che sono state adottate? Quali sarebbero le direzioni, gli orientamenti di queste misure proprio in favore delle piccole imprese? Ma ho visto delle cifre importanti, l'importante è che quelle cifre arrivino direttamente alle nostre aziende, altrimenti sono misure inutili. L'intervento dello Stato, l'intervento pubblico o lasciare libero il mercato, per quanto riguarda le piccole imprese, fino a che punto può toccarle? No, questo è un passaggio fondamentale perché in un momento di crisi così complesso, così articolata, così generalizzata e globalizzata è evidente che lo Stato deve avere un ruolo. Ci sono delle cifre e delle partite impossibili da giocare a livello di singola azienda. È bene che lo Stato intervenga, però mettendo una pezza e facendoci uscire da questo momento di crisi e poi ritornando a delle regole di mercato nuove dove la concorrenza sia davvero riferimento per tutti noi. La concorrenza, com'è cambiata dai primi tempi in cui le imprese piccole andavano all'estero, adesso che ci sono anche diciamo diversi attori internazionali? Ma in questo credo che l'intensa attività che Confindustria ha fatto negli ultimi anni in tema di internazionalizzazione abbia potuto dare la svolta a quello che è l'accesso ai mercati e il contatto con nuovi paesi che soprattutto i piccoli imprenditori hanno avuto. Confindustria è riuscita in poco più di 3 anni a portare ad accompagnare nel mondo più di 6.500 imprese, delle quali quasi il 100% sono piccole imprese. Queste imprese hanno sostenuto in tutti i paesi visitati complessivamente 33.000 incontri di B2B. Io credo che questo sia il miglior modo, il miglior riferimento per poter mandare le nostre piccole imprese nel mondo. Infine il messaggio di questo convegno che si vuole lanciare attraverso anche l'esperienza di piccoli imprenditori che portano la loro testimonianza. Ma guarda, noi ci rivolgiamo al Paese. Vogliamo che per una volta si riconosca con chiarezza e passione quello che la piccola industria sta facendo per l'Italia, ma soprattutto si definisca una volta per tutti che la piccola impresa è la vera uscita di sicurezza da questa crisi. Ed era Giuseppe Morandini, presidente di Piccola Industria e Confindustria, intervistato da Anna Marino al margine del forum Piccola Industria di Bologna, iniziato oggi. Focus Economia anche per questa sera termina qui. Vi ricordo che oggi è stata di nuovo una giornata molto pesante per i mercati finanziari internazionali, con Piazza Affari che ha chiuso con un ribasso del 5,6% sull'S&P MIB e del 4,96% sul MIB. E chiudiamo con un messaggio di un ascoltatore, non lo facciamo mai, questa volta lo facciamo perché Corrado ci racconta di una buona notizia e in questo momento siamo assolutamente golosi di buone notizie. Deborah mi dice: mi hanno rinnovato il contratto a tempo indeterminato, lavoro per la ditta di trasporto migliore e più grande del Nord Italia. Corrado, davvero tanti auguri, speriamo che questa sua fortuna possa contagiare in questo momento difficile molte altre persone nel nostro paese. Tutto, Focus Economia torna lunedì alle 17 con Sebastiano Barrisoni. Da Deborah Rosciani, buona serata a tutti.